Storie italiane. La regina delle nevi. Tanto tempo fa, due grandi amici, Kai e la piccola Gerda, abitavano vicini. Entrambi amavano i fiori e piantarono un cespuglio nel loro bellissimo prato. La nonna di Kai raccontava ai due bambini tante belle storie. Un giorno, durante la stagione invernale, la nonna raccontò la storia della regina delle nevi. La regina delle nevi è una strega molto crudele. Può trasformare il cuore di una persona in ghiaccio e farlo diventare un suo schiavo. Dobbiamo proteggerci dalla regina delle nevi. Se verrà qui, io la scioglierò sul fuoco e lei diventerà una grande regina dell'acqua. Ascoltate questa strana risata. Chi sarà? Magari qualcuno nascosto sotto la finestra. Kai aprì la finestra e guardò fuori se ci fosse qualcuno. Stava nevicando e qualcosa entrò negli occhi di Kai. Ah, i miei poveri occhi! Dopo gli occhi, qualcosa colpì il suo cuore. Oh, il mio cuore! Cos'è successo, Kai? Sei ferito? Gerda, non sono affari tuoi! Su, spostati! Ah! Gerda rimase sconvolta e preoccupata perché Kai non aveva mai avuto un atteggiamento del genere. Da quel giorno, Kai cominciò a comportarsi in maniera strana. Iniziò ad evitare Gerda ed era sempre molto scorbutico. Gerda non capiva il comportamento di Kai. Un giorno, Kai prese la sua slitta. Kai, andiamo a giocare insieme! No! Io vado a giocare con alcuni bambini più grandi! Kai, noi siamo migliori amici! Perché non parli più con me? Yay! Kai non prestò alcuna attenzione a Gerda e si mise alla guida della sua slitta. Gerda cercò di capire dove andasse, ma Kai andava così veloce che svanì davanti agli occhi della bambina. Delusa, Gerda tornò a casa. La slitta di Kai scivolava velocemente. Si avvicinò ad una carrozza di ghiaccio trainata da alcune renne e attraccò la sua slitta. Una persona misteriosa la portò con sé. Inizialmente Kai si divertì, ma in seguito si spaventò. La persona misteriosa lo prese con sé. Kai vide un grande castello fatto di ghiaccio. Scese una donna dalla carrozza. Era la regina delle nevi. Benvenuto nel mio regno della neve, Kai. Prima che Kai potesse dire qualcosa, la regina delle nevi usò la sua potente magia sul piccolo Kai. Con la sua magia ipnotizzò Kai che non poté fare altro che seguirla. La regina delle nevi condusse Kai al suo castello. Gerda aspettò Kai inutilmente, che non tornò. Provò a cercarlo, ma non riuscì a trovarlo da nessuna parte. Giunse l'estate. Gerda decise di trovare Kai e riportarlo a casa. Spiegò tutto alla nonna. Sei una ragazza coraggiosa, Gerda. Sicuramente ci riuscirai. Grazie, nonna. Prendi questo specchio con te. Ti sarà utile. Gerda prese con sé lo specchio e iniziò il suo lungo viaggio alla ricerca di Kai. Si diresse molto lontano dalla sua casa. Gerda chiese agli uccelli, agli animali, agli alberi e al vento se avessero visto Kai. Nessuno aveva visto Kai. Ma Gerda non si arrese e continuò la sua ricerca. Dopo aver percorso un lungo cammino, si avvicinò ad un maestoso fiume. La dolce bambina non vide nessuno. Gerda pensò di chiedere al fiume. Caro fiume, per favore dimmi se hai visto il mio amico Kai. Lui è scomparso. Nessuno rispose alla sua richiesta. Delusa, stava per lasciare quel luogo. Tutto a un tratto da lontano giunse una colomba bianca. Si posò sulla spalla di Gerda. Io posso aiutarti. La bambina, mi devi dare qualcosa. La colomba volò via. Gerda pensò che fosse un messaggero del fiume. Tolse la collana e la gettò nel fiume. All'improvviso, una barca si diresse verso di lei. Era vuota. Gerda si sedette sulla barca e la barca magicamente iniziò a muoversi. Così Gerda attraversò fino al lato opposto del fiume. Gerda scese dalla barca e vide davanti a sé un giardino. Un bellissimo giardino con meravigliosi fiori. Non aveva mai visto tanti tipi di fiori nella sua vita. Gerda era estasiata. ma notò che quei fiori non emanavano nessun profumo. Una donna si avvicinò a Gerda. Benvenuta, piccola. Grazie. Chi sei, dolce bambina? E dimmi, cosa ti porta qui? Sono Gerda e sto cercando il mio amico Kai. Tu l'hai visto? Kai? Oh, no. Mi spiace, io non l'ho visto. Oh, allora devo andare. Mi dispiace se ti ho disturbata. Un attimo. Il tuo amico si chiama... Kai? Mi sembra di aver visto un ragazzo che passava da qui. Vieni con me e ti racconterò tutto quello che so. La donna le offrì un po' di tè. Gerda le raccontò della scomparsa di Kai e del suo dubbio che la regina delle nevi fosse la colpevole. Oh, la regina delle nevi! Lei è una strega! È colpa sua se tutti i miei fiori hanno perso il loro profumo! Voglio dargli una bella lezione! Dopo un po' di tempo, la donna iniziò a pettinare i capelli di Gerda. Usò un pettine magico. In realtà, la donna misteriosa desiderava che Gerda rimanesse con lei per sempre. Grazie all'uso di questo pettine magico, cancellò la memoria di Gerda. Gerda si addormentò e quando si svegliò non ricordava più nulla. Ma dove mi trovo? Sei con me, dolce tesoro. Nel mio giardino. Ma la magia della donna non ebbe effetto sull'anima pura di Gerda. Non appena Gerda vide le belle rose sul cappello della signora, ricordò Kai e tutto ciò che lo riguardava. Devo trovare Kai il più presto possibile. Devo partire subito. La donna cercò di fermare Gerda, ma Gerda era irremovibile nella sua decisione. Tornò alla barca e si sedette. L'imbarcazione iniziò a muoversi, ma non sapeva dove andare. Oh, fiume! Aiutaci a trovare la strada! Non appena finì la sua preghiera, un corvo volò davanti a lei e le indicò di dirigersi a nord. Gerda seguì il corvo per qualche tempo. Viaggiò attraverso il mare ghiacciato e raggiunse una nave. Gerda salì sulla nave. Questa nave mi porterà al castello della regina delle nevi! Una ragazza pirata saltò davanti a Gerda. Hai perso la ragione, ragazza! Sei in una nave pirata! Gerda le raccontò tutto di Kai e della regina delle nevi. La ragazza pirata si dispiacque per loro. Non puoi prendere Kai dal castello della regina delle nevi. Dimenticalo! Io lo troverò a qualsiasi costo! Non lascerò mai il mio amico nei guai! In realtà, vedi, io non ho amici, quindi volevo che tu rimanessi con me. Ma sono impressionata dal tuo atteggiamento. Ti aiuterò a trovare il tuo amico, promesso. La mattina successiva, la ragazza pirata prese una renna per Gerda. Guarda, questa è la renna più veloce e scattante dell'intero regno della neve. E ti porterà al castello della regina delle nevi. Ah, grazie! Prendi quella strega ghiacciata e dalle una bella lezione! Gerda cavalcò la renna. Dopo aver viaggiato per una lunga distanza, Gerda raggiunse un igloo e lì incontrò un vecchio. Ah, così mi hai portato uno specchio, vero? Gerda fu sorpresa di udire quelle parole. Non capiva come il vecchio saggio sapesse dello specchio. Prese con sé lo specchio magico e lo mostrò al vecchio uomo saggio. Mi aiuterà a sconfiggere la regina? No, si tratta di uno specchio magico. Mostra la verità. Nient'altro che la verità. Poi, il vecchio saggio disse a Gerda chi fosse realmente la regina delle nevi. Quando la regina delle nevi era ancora una bambina, era gentile e allegra. Ovunque andasse, i fiori sbocciavano. Quando sorrideva, gli occhi brillavano come un bel sole. Era unica e felice. Il suo nome era Lela, ma tutti pensavano che fosse una strega. Ecco perché i bambini avevano paura. Non volevano più giocare con lei e parlare con lei. Infine, rimase sola e infelice. Molto presto, lei iniziò a odiare tutti e tutto ciò che le circondava. E un giorno scagliò un maleficio. Tutti quelli che mi hanno ignorata si trasformeranno in ghiaccio. Poi costruì un enorme castello di ghiaccio isolato da tutti. È cresciuta da sola, senza amore e gioia nella sua vita. Per favore, non ucciderla. Uccidi i suoi pensieri malvagi. Il tuo specchio magico ti aiuterà a farlo. Se riesci a farle ricordare chi era, tu allora potrai salvare il tuo caro amico Kai. Gerda raggiunse il castello della regina delle nevi. Vide Kai in un angolo. Stava costruendo una scultura di ghiaccio. Oh, Kai! Sono così felice di vederti! Sono io, Gerda! Non mi riconosci? Kai? Kai la guardò, ma non rispose. Improvvisamente la regina delle nevi apparve. Come il mio regno incantato, anche il suo cuore si è trasformato in ghiaccio. Vai via, ora lui è il mio schiavo. Lascialo o ti trasformi in una statua di ghiaccio. Kai, torna indietro! Mi manchi! Sono venuta per riportarti a casa. Andiamo. Le lacrime di Gerda caddero sulla mano di Kai. Il calore e l'affetto sciolsero il legame magico. Kai iniziò lentamente a riacquistare i suoi ricordi. Gerda? Oh, io mi ricordo di te! Io mi ricordo di ogni cosa! La regina delle nevi era furiosa nel vederli insieme. Prese la sua bacchetta magica per maledire Gerda. Gerda prese il suo specchio e le voltò contro la maledizione. La maledizione svanì. La regina delle nevi guardò dentro lo specchio magico di Gerda. Quello che vide non era il suo volto, era il volto di una bambina. Improvvisamente, la regina delle nevi si era trasformata in una bambina. Grazie, Kai e Gerda! Grazie per avermi fatto ricordare chi sono! Finalmente i miei pensieri malvagi sono svaniti! Kai e Gerda divennero amici di Leila e tornarono a casa.